La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, in questo lunedì 2 maggio alle 16.30, primi 52 secondi, siamo in diretta dagli studi di Milano. Scalgerino vi saluta e vi ringrazia e vi dice subito, se volete intervenire per darci la vostra opinione all'800240024, le opinioni sms 3492386666, parleremo di un tema che è un classico della storia italiana ma di cui si tende a dimenticare l'esistenza e che invece è stato, secondo me, ieri brillantemente rievocato da un collega che io stimo molto da molti anni. Ha scritto un articolo sul Fatto Quotidiano ricordando un bel po' di nomi che eternano, per così dire, nella politica italiana il trasformismo. Ecco, parliamo del trasformismo e quindi la mia domanda è: ma cosa pensate di quelli che come si vede e come vi ricorderà il nostro ospite, nella prima repubblica erano a famiglie intere elette con la DC, nella seconda repubblica le stesse famiglie erano eletti e capi corrente locali, rappresentanti nel potere locale dei partiti, classicamente nel Forza Italia, Berlusconi nel centrodestra e alcuni da N, e che oggi sempre più sono migrati e stanno migrando nel PD, perché classicamente il trasformismo significa questo. È un classico della storia italiana, perché dopo i primi 10 anni di unità nazionale, dopo il 1861, già minò dalle fondamenta la classe dirigente che, tra tutti i suoi difetti, era riuscita a unire l'Italia dietro Garibaldi, ma poi a unirla nei suoi ordinamenti. Il trasformismo, da De Pretis in poi, è una costante della vita politica italiana. Lo è stato sotto Giolitti, lo è stato sotto il fascismo, e come no, lo è stato nella Repubblica prima, nella seconda, e pare che adesso anche in questi primordi della terza, o non so che cosa, in attesa del referendum di ottobre, di cui oggi il Presidente del Consiglio ha lanciato in grande stile la campagna stamattina da Firenze, con l'inizio dei comitati per il sì, di qui a ottobre si gioca tutto. Il Presidente del Consiglio, sapete, l'ha ribadito e lo ribadirà da allora, con un'importanza che ai suoi occhi è superiore addirittura ai risultati delle amministrative, ma si capisce il perché. Dice: io vado a casa, mi rottamo da solo se perdo. Però in tutto questo, ragionare su questo aspetto ricorrente, profondissimo, della storia del potere italiano, cioè il cambio di casacca a seconda di chi vince, ma assecondando chi vince e disinvoltamente assumendo la casacca di chi vince, nella continuità della gestione del potere amministrativo, dell'opacità del potere amministrativo, questo è, secondo me, meritorio sollevarlo, questo tema. Adesso, prima di arrivare subito al dunque, cioè di presentarvi per nome e cognome il nostro ospite, di pregarlo regione per regione di ricordarci quanto importanti sono questi nomi nella geografia del potere anche attuale, lasciatemi però dire in 30 secondi che gli sviluppi di giornata sono sviluppi di giornata, se mi consentite, che danno ragione a chi come me e ai pochi minoritari come me, tipo i Conti della Belva del sabato, criticano, numeri alla mano, i tentativi di nascondere sotto la vernice la debolezza del sistema bancario italiano. Perché sapete, immagino, avete sentito il giornale radio, che Borsa Italiana, l'autorità della Borsa Italiana, ha decretato che non si può quotare in Borsa la Popolare di Vicenza, non si può, col 93% di inoptato in tasca ad Atlante, sarebbe stato far ridere il mondo decretare che quello era flottante e procedere alla quotazione della Popolare di Vicenza. Tutto questo dopo che stamattina le banche avevano ballato in maniera abbastanza aggressiva al ribasso. Perché? Perché è evidente che i mercati, dite quello che volete, riempitevi la bocca della difesa dell'italianità, del patriottismo, dite che è colpa dei tedeschi, eccetera eccetera, i mercati continuano a ragionare sul fatto che il nostro sistema evidentemente era debole, tanto debole che ci si inventa di volta in volta delle trovate, come Atlante, che è corto di capitale malgrado 67 investitori e dice che da solo risolve il problema degli NPL italiani e da solito risolve il problema di tutti gli aumenti di capitale che, come evidente, non trovano sottoscrittori, come la Popolare di Vicenza. Vedremo Veneto Banca, io non me lo auguro, non me lo auguro. Quello che temo però è che questo atteggiamento di sfida nazionalitaria continuerà a esporci sempre di più progressivamente al giudizio dei mercati, che non capiscono, cioè non capiscono con questi pochi soldi Atlante come fa a fare tutto quello che dice, non lo capiscono. Non è questione che ci sono contrari, non lo capisco. Io mi auguro che un po' di ragionevolezza e di meno tonitruante nazionalismo ci inviti a riflettere e a fare quindi passi all'altezza. Se davvero tutti gli investitori bancari di primo livello italiano credono ad Atlante, bene, lo devono capitalizzare di 5 volte tanto e così via. Altrimenti non si può dire al mondo è il backstop di tutti gli aumenti di capitale in arrivo e contemporaneamente quello che risolve 82 miliardi di crediti deteriorati netti e 240 lordi e 340 complessivamente se alle sofferenze lordi sommiamo anche gli incagli. Però detto questo, torniamo al nostro argomento. Per il resto, per i mercati, ovviamente io vi rinvio a Sebastiano Barisoni e a Focus Economia che ci segue. Allora, il trasformismo, dicevamo, sul Fatto Quotidiano ieri, domenica 1 maggio, una fitta pagina di nomi per ricordare a chi se lo dimentica che figli d'arte in politica ce ne sono tanti, signori delle tessere si resta in molte famiglie essenziali di generazione in generazione per la ricostruzione della geografia del potere, il Sud, diceva il titolo, è tutta una grande famiglia. Ecco i pilastri della politica meridionale, sconosciuti ai più, ma potentissimi a casa loro. Ecco, dinastie si trovava come indicatore dell'argomento del titolo. A scrivere questo articolo, che a me è piaciuto molto, Antonello Caporale, che ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio. Grazie a te, buonasera. Allora, ti posso chiedere un giudizio prima di iniziare a ricostruire regione per regione un po' di questi nomi? Tu sei testimone dell'evoluzione della politica italiana da un pezzo, non voglio dire quanto, ma insomma non siamo più giovincellissimi, no? Ecco. No, purtroppo no. Da che ricordi tu? Il trasformismo è rimasto uguale? È peggiorato? Ha avuto dei momenti in cui sembrava migliorare e poi è ripreso? Come la vedi? Una linea di continuità o c'è stata qualche interruzione? Oscar, qui ci viene in soccorso il professor Franco Cardini, che ho ascoltato e intervistato l'altro giorno. Lui dice, io assento perché è la verità, che l'identità italiana è un'identità di un popolo trasformista, di un gene trasformista, e Matteo Renzi è figlio di, lui dice, tre leader storici, Giolitti, Mussolini del 24, il Craxi e poi lui, che con la manovra parlamentare, e cioè giocando a Monopoli, mettendo, restituendo, escludendo o cooptando, tiene in modo eccellente il governo in mano. E i fatti gli danno ragione. È un campione della manovra politica, un tattico di particolare raffinatezza, e riesce a governare l'ingovernabile, l'impresentabile, e anche l'assolutamente equivoco. Da qui la sua forza la ricava da una serie di voti che, presi uno a uno, come io ho tentato di fare per sommi capi, anzi sommissimi capi, solo, certo, farebbero rabbrividire. Chi mi vota? Chi vota il governo della rottamazione, del cambio di passo, del fare, dell'ottimismo? Lo votano persone che costituiscono gruppi familistici eterni nei loro territori, che sono divenuti possedimenti. Non hanno Renzi, in questo c'è un miracolo straordinario, non li conosce. O se li conosce fa finta di non sapere il loro nome. Io spesso credo che non li conosca davvero. Ecco, però se noi gli ricordassimo, per esempio, che Lello Topo, ecco, che io nemmeno conoscevo, Raffaele Topo, detto Lello, credo da Villa Ricca, produca da solo circa 15.000 voti e governi da solo o in mezzadria con un altro campione delle tessere napoletane, il Partito Democratico, noi racconteremmo che quest'uomo, che è stato factotum di Gava, persino autista si dice, nei decenni si è trasformato fino alla punta della più feroce rottamazione del vecchio. E quindi, cioè, da Gava attraverso Vincenzo De Luca, pilastro della vittoria di Vincenzo De Luca alle elezioni regionali, noi tutti tentammo di occuparci del fatto che la vittoria di Vincenzo De Luca era costruita attraverso, insomma, un uso disinvolto di collegati e alleati con le liste, a sostenere Renzi. Perfetto, adesso ti faccio io, se mi permetti, un quesito che illustra il dominio di alcuni uomini sui costi, sulle teste. Sì. Se io ti chiedessi, De Luca, prima di sostenere Renzi con un grandissimo afflato e tanta emozione, chi ha sostenuto? Tu ricorderesti Bersani, no? E Bersani vinse contro Renzi alle primarie precedenti a quella della sconfitta e dunque della vittoria. Sì, tardo autunno 2012, sì. Benissimo. De Luca sosteneva Bersani a Salerno, dove era sindaco. Posso chiederti, secondo te, Bersani a Salerno, quanti preferenze ebbe su 100, fatto 100 il totale? No, dimmelo tu, non lo so. Il 93%. Ah però. Poi De Luca è passato con Renzi. Posso chiederti, Renzi a Salerno, quanti voti ha ottenuti alle primarie? Ridiccelo. Il 93%. Ah, però, certo, una casualità che non desta sospetto. Ecco qui il nostro problema. Ed ecco qui il vero ineludibile, secondo me, straordinario dilemma. Tu puoi fare tutti i patti che vuoi per lo sviluppo, puoi mettere tutti i soldi che vuoi, ma se sono quelli che hanno distrutto prima, distruggeranno dopo. E quindi se c'è, abbiamo parlato del consigliere regionale Topo a Napoli, c'è il presidente del Molise che è un ex di Forza Italia e si chiama Paolo Frattura, figlio di un ex della Democrazia Cristiana, Fernando Frattura. E chi sostiene Paolo Frattura? Lo sostiene un ex deputato e sindaco di Termoli del centrodestra, che momentaneamente, al momento di votare il governatore del Molise, ha detto: io non posso obbedire alla disciplina, sostengo il mio amico. E dunque delle famiglie di centrodestra sostengono persone di centrodestra che pro tempore sono rappresentanti del centrosinistra, e anche il Molise produrrà voti per Matteo Renzi, così come produrrà voti la Lucania, che ha il duo, i gemelli Pittella, gemelli politici e non anagrafici. L'uno è capogruppo del PSE a Strasburgo e si chiama Gianni, l'altro è Marcello ed è governatore della Lucania. Ma i Pittella da quanti anni governano la Lucania e da quanti anni la dominano? Non si sa, si dovrebbe tornare all'800, al 700 se gli avi avessero per caso escluso ogni interesse pubblico. E in Calabria da quanti decenni manovra Nicola Adamo, che è l'anima bianca e nera del partito? E che cosa ha proposto negli anni? Ha proposto la presidenza di Agazio Loiero, Forza Italia, ex Mastelliano, poi presidente. E io, sia Loiero che l'attuale presidente governatore, che è Mario Oliveri, li colloco nel cosiddetto partito gnè di destra, gnè di sinistra, gnè alto, gnè basso. Cioè è la non solo inamovibilità al potere, ma è l'immobilità al potere. Non fanno nulla. Pomera e la Calabria. Tu, come sai, l'Istat ha appena fornito le cifre del calo demografico. Il sud diventa un grandissimo cimitero. Circa 1650 paesi scompariranno entro il 2030. E nella Calabria non vanno via solo i talentuosi, gli eccellenti, che naturalmente non si perdono tra Cosenza e Catanzaro. Noi abbiamo fatto scomparire un'intera generazione di diciottenni che vanno a fare i pizzaioli a Londra. E solo Londra conta 200.000 giovani studenti italiani. Questa è la disgrazia e questa è la nostra pena, perché il Sud, senza il Sud l'Italia può fare quello che vuole, ma se il Sud resta quello che è, cioè un luogo in cui gruppi o criminali o familistici si spartiscono un territorio vergine e bellissimo ed espellono sistematicamente ogni attività ed ogni azione ed ogni intelligenza che vuole cambiare, e allora non c'è futuro. In questo io noto in Matteo Renzi la più acuta delle contraddizioni. Io capisco perché lo fa, perché raccoglie una messa di voti incredibile. Pensiamo solo alla Sicilia, a quante migliaia di voti gli portano i nuovi e i vecchi, a chi c'è che governa. In Sicilia governa e comanda un tale che si chiama Davide Faraone, che è alleato con un altro tale che si chiama Salvatore Cardinale. Davide Faraone, sottosegretario alla pubblica istruzione, si è laureato da poco, ha svolto con successo la sua tesi in, credo, scienze politiche, a 40 anni forse. Salvatore Cardinale ne ha molti di più, è stato naturalmente di destra, è stato naturalmente Mastelliano, è stato naturalmente del PD, prima della Margherita, ha sostenuto con successo l'elezione di Francantonio Genovese alla segreteria regionale del PD con Veltroni. Apro parentesi, Francantonio Genovese è stato arrestato e da deputato è stato dimesso, dimissionato, mandato via. E lui ha deciso, dopo essere stato mandato via, di passare armi e bagagli, per bagagli si intenda l'intero gruppo consiliare del PD, in Forza Italia. Salvatore Cardinale invece è il papà di una deputata, Daniela Cardinale. Daniela Cardinale. E Covello, detto anche Cacio Covello a Cosenza, per la sua particolare piacere di stare a tavola e negoziare gli affari naturalmente politici, ha una figlia, Stefania, che ha fatto uno stage in Forza Italia come consigliere comunale e adesso è deputata del Partito Democratico. Se allora le intersecazioni illustrano la nostra capacità di trasformarci e di essere sempre sorridenti e sempre vogliosi di raccogliere voti e quindi potere, si può ben dire, e potrei dirlo, e potremmo sottoscriverlo oggi, che i soldi affamano se non sono gestiti bene. I soldi affamano. Allora, affamano. Io devo dirvi la verità, io non ho interrotto Antonello Caporale perché Antonello è anche bravissimo, come sentite nel resoconto, nel racconto orale. Cioè, io sono persuaso del fatto che ci fossero più colleghi in tutti i giornali, qualunque orientamento, qui non si tratta di un orientamento politico, questi sono i fatti che descrivono la politica che nei decenni per questi comportamenti porta a distruzione di risorse in larghissimo senso. Io sono d'accordissimo con la conclusione di Antonello, detta alla fine del suo ragionamento, in larga misura, non solo per questo, ma in misura preponderante. Il Sud ha perso i treni per decenni, malgrado le risorse, mediati, gli aiuti europei, eccetera, eccetera. Per queste ragioni qua, per un trasformismo familistico di sette imperanti nel territorio attraverso i partiti, per i loro patti, per le loro evoluzioni, per le loro... Allora, questa cosa qua è un pezzo di politica che o va affrontata direttamente oppure continuerà a costituire la trama e l'ordito della politica italiana, cioè di un pezzo di consensi e voti senza di quali nessuno vince a livello nazionale. E quando si presenta con la rottamazione come Matteo Renzi, io lo considero ancora in larga misura in buona fede, lui crede davvero in quello che fa, però il problema è che paga un prezzo amaro al fatto che in tutto il Sud, quello in cui i presidenti di regione poi gli sono rivoltati contro con il referendum delle trivelle, eccetera eccetera eccetera, per lui è diventato un prezzo da pagare facendo finta di non pagarlo. Ed ecco perché lo avete trovato De Luca a fianco dell'ultimo intervento in Facebook pochi giorni fa, alla fine della settimana scorsa. Io la penso così, non pretendo di essere solo un'opinione minoritaria, però viva quelli come Antonello Caporale che prendono la pazienza di ricostruire e raccontare regione per regione chi era nella DC, poi è andato in Forza Italia, è andato in AN, sta nel PD, c'è un fratello di qua, una figlia di là, okay. Sono in larghissima misura la geografia di un potere nelle mani di persone, perdonatemi, il cui fine non è la buona amministrazione, il fine è perpetrare il loro potere, e questo significa certezza di inefficienza. Lo so che tanti politici direbbero questo è un ragionamento pregiudiziale, non lo è secondo me, perché poi magari per molti di voi invece lo è, sono tutte ottime persone che casualmente sono parenti. Allora andiamo un minuto di informazione stradale, poi sentiamo come la pensate. La versione di Oscar. Allora, moltissimi di voi pensano che il tema sia vecchio e quello che mancano sono le soluzioni. Altri pensano che il trasformismo nasce dal controllo del territorio. Questa è per esempio l'opinione di Francesco Nicolosi, che dice, io lo chiamo mafia fascismo, ed è una componente che in molte regioni del sud, in molte parti del sud, dice, è purtroppo ricorrente. Chiunque governi a livello nazionale diventa sempre la stessa cosa. Altri dicono il patto di sindacatura fatto sistema, può essere, e molti sostengono, guarda che anche in Lombardia o nel nord, sì, io non voglio dire che è tipico solo il sud, non commettiamo questo errore, certo lì è impressionante nel suo essere manifesto, per così dire. Sentiamo rapidamente come la pensano un paio di voi che hanno telefonato e poi torniamo ad Antonello Caporale, che ringrazio ancora di essere con noi. Giorgio dalla provincia di Brescia, prego Giorgio. Buonasera Giannino. Buonasera. Telefono dalla provincia di Sondrio, veramente. Ho detto Brescia, quindi mi scuso e correggiamo. No, assolutamente. Allora, volevo dire, secondo me, secondo il mio pensiero, che c'è un comune denominatore che classifica tutti questi trasformisti, ed è il cattolicesimo, secondo me. Secondo lei. Perché il cattolico di per sé è lo speculatore per eccellenza. Addirittura lo speculatore. Per come la penso io. Non azzarderò qualche cosa di più, ancora di più forte. Il cattolicesimo è un'aberrazione del cristianesimo. Vabbè, capito. Secondo me. Perché è nettamente contrario proprio al pensiero di Cristo, che l'etica per Cristo era la grande... Giorgio, diciamo. Io adesso glielo ho fatto dire, io naturalmente sono tenuto a dire, perché sono proprio convinto che non sia così, cioè nel senso che un conto è un atteggiamento culturale delle classi, dell'elite al potere, che mantengono il potere, perché abbiamo sentito prima noi precedenti, da De Pretis a Giolitti, alla nascita del fascismo, nei proprietari terrieri e gli imprenditori che lo finanziano, fino alla DC dopo De Gasperi, però io non ci credo che deriva da... il cattolicesimo, dalla Chiesa, proprio opinione mia, però io non ci credo. Credo che sia un carattere della cultura dell'elite dirigente italiana, riguarda la politica, ma non solo la politica. Questo è, ohimè, l'amarezza delle riflessioni di Caporale, che io condivido. Marco da Matera, come la pensa, Marco? Ciao, buonasera. Allora, io sono del sud, ovviamente, mi sono sentito un attimo tirato in ballo, ma volevo fare questo ragionamento al giornalista del Fatto e dirgli: ma fatto 100 che il numero dei votanti di Palermo è sempre quello, così come quello di Salerno o di Napoli, per quale motivo quando questi 100 votano per una determinata parte sono figli della camorra, sono figli della mafia, sono collusi eccetera, poi quando un'altra volta gli stessi, perché gli stessi elettori si tratta, votano invece per un'altra parte, diventano la forza della democrazia, diventano l'innovazione. Però Marco, scusi, noi non abbiamo detto questo. Noi abbiamo detto che votano da una parte o dall'altra perché si spostano le espressioni di controllo che esprimono queste catene di potere locale. Non ci ha sentito dire che se votavano a sinistra sono la democrazia e se votavano per Berlusconi era la mafia. Il problema è che si spostano, c'è una transumanza fortissima a seconda di chi vince e chi esercita il potere. Noi non abbiamo parlato, né io né Antonello Caporale, nei termini che dice lei. Quindi il problema non è che è meno patologico, sa? Il problema è che la patologia è proprio esattamente questa, cioè il trasformismo è il potere immobile, cambiano i nomi e i riferimenti nazionali, ma è il potere nelle mani degli stessi, cioè poi ci sarà l'alternanza a vincere le elezioni, ma a controllare le preferenze, i voti e le amministrazioni, se restano gli stessi, lei capisce che è un'alternanza, per modo di dire, è la più pura continuità. Questo è il punto. Gianmario da Napoli, prego Gianmario. Ah, buonasera, dottor Gianmario. Quella del trasformismo l'ho sentita tanti anni fa da Indro Montanelli nella sua Italia dei Notabili, che già rilevava questo problema soprattutto al sud, quello che poi noi abbiamo definito come il familismo amorale. Volevo chiedere una cosa, ma pensa che il Movimento 5 Stelle possa essere quella forza politica che è in grado di rompere gli schemi del trasformismo? Oppure poi verrebbe, una volta al potere, ove mai ci andasse, verrebbe coinvolta in questa ennesima... Gianmario, come si fa a dare una risposta alla sua domanda? Almeno io penso che onestamente uno deve dire: non c'ho la palla di cristallo. Adesso sentiamo Antonello Caporale come la pensa. Il problema però è che questo fenomeno ha innervato tutti i partiti della prima e della seconda repubblica, senza eccezioni, perché oggi abbiamo parlato del PD, prima era il caso della destra, cioè le famiglie della seconda repubblica le ha innervate tutte. Che pensi, Antonello? Io penso esattamente così, che mancava una postilla forse decisiva. Nessuno è innocente, il cittadino, l'ascoltatore di Matera, è il popolo, che poi è una maggioranza del popolo che si adegua e sostiene e fomenta e allarga le basi di un consenso immutabile. Su questo c'è un carattere della nostra mediocrità, dobbiamo dircelo, perché forse abbiamo troppa considerazione di noi stessi. E il mediocre non è il fesso, colui che è un minus abens, è colui che tiene, mette la mano sulla corda e attende che un altro la tiri avanti e aspetta. Il mediocre è colui che conserva e sclerotizza, il talentuoso è l'immobile e l'indisciplinato, è quello che ha già la mano. Il mediocre è l'integrato che dice non si può. E perché non si può? Perché non si può. E non chiede conto né dà conto. Quindi le famiglie che possiedono il territorio come se fosse... E lo possiedono catalogo. Grazie al fatto che, come dice Antonello Caporale, che purtroppo devo, perché come sta finendo il tempo, è perché soggiaciamo, per così dire. E questa è l'amarezza di questa faccenda qua. Grazie tantissimo, Antonello, continua a scrivere di questi pezzi tutta la vita. E continuate con la 24, appuntamento 8:15 di mattina con me, Alessandro Milan.